questa fase qua sempre più determinante quelle che sono le politiche imperialiste da parte degli Stati Uniti d'America, in questo caso appunto per quanto riguarda Cuba, che come dire ci stanno trascinando in una terza guerra mondiale, e ci sembra un po' obbligatorio, non so come dire, dare sostegno a una popolazione che ha dimostrato in passato che l'autodeterminazione dei popoli è un fattore che può mettere in liberazione la popolazione. Noi qua in Italia abbiamo un enorme problema con gli Stati Uniti d'America, vedi le politiche, come dire, della Meloni, comunque a partire da anche dei vecchi governi, che sono succubi di quelle che sono le scelte, diciamo, degli Stati Uniti d'America. Qua in Italia abbiamo 121 basi militari statunitensi in un teatro di guerra che si sta sempre di più ampliando per quanto riguarda il Medio Oriente. Siamo pressoché una colonia degli Stati Uniti d'America, e oggi più che mai bisognerebbe incominciare a ragionare sull'autodeterminazione vera anche dell'Italia. Quindi un po' per dare un sostegno alla popolazione cubana, che appunto è strangolata da quello che è il bloccheo, che gli impedisce di avere rapporti economici con vari stati, proprio perché gli stati che vorrebbero intraprendere rapporti economici con Cuba, se in quel momento accade, verranno sanzionati dagli Stati Uniti d'America. Quindi ci sembra un po' obbligatorio, per quanto riguarda la nostra, come dire, linea politica anche come CALP, di sostenerli e di portare appunto beni di prima necessità, come appunto in questo caso si tratta di medicinali e di pannelli fotovoltaici, oltre che appunto di aiuti economici proprio per autosostenersi, diciamo. Di fatto partiremo dal Messico, da lì partirà questa flotta e arriverà a La Habana il 21, come si sta dichiarando anche in questi giorni, che ovviamente non è l'unica data in cui poi tenteremo di portare dei beni di prima necessità, ma è l'inizio di un percorso di sostegno a Cuba, proprio perché il nostro governo non ha minimamente intenzione di schierarsi mai dalla parte, diciamo, dei più deboli, ma anzi, scusate il francesismo, leccare il culo sempre a chi, come dire, si dimostra il cattivo della situazione, ecco. Tu dicevi appunto partirete dal Messico, a differenza della Global Sumul Flottiglia ho letto che ci saranno diversi modi per arrivare a Cuba, anche via terra e via, come dire, via aerea. Voi sarete su un'imbarcazione? Sì, noi partiremo per quella via mare, poi ci saranno anche un'altra serie di compagni, c'è una, diciamo, una delegazione italiana anche bella grossa che partirà via aereo, dove appunto ci ricongiungeremo a La Habana il 21 per questa iniziativa internazionale. Quindi sì, noi partiremo, diciamo, da quella via mare. La strategia di Trump nei confronti di Cuba sembra essere un po' diversa rispetto a quella, come dire, attuata in Venezuela con il rapimento di Maduro. L'obiettivo sembra essere quello di prendere la popolazione per fame. Sì, è proprio, con Cuba si dimostra il pensiero ideologico che c'è dietro, come dire, agli Stati Uniti d'America. Perché mentre, diciamo, sul Venezuela, non giustificato ovviamente, c'è un discorso più legato all'economia, no? Quindi mi impossesso di quel territorio perché necessito dei pozzi petroliferi presenti, oltretutto il Venezuela è uno dei paesi con i giacimenti più grandi del mondo, mi impossesso di quello Stato per sostenere la mia necessità petrolifera. Qua è proprio un discorso ideologico, cioè quel modello sociale socialista lo devo, come dire, strangolare e uccidere, perché negli anni, ovviamente con tutte le contraddizioni del caso, si è dimostrato un modello alternativo al mio in quanto Stati Uniti d'America. In queste ultime ore ci sono state varie dichiarazioni sia da parte del Ministero degli Esteri statunitensi, dove ha dichiarato che la flottiglia che partirà appunto per La Habana è sovvenzionata dalla Cina, sono comunisti, no? Comincia a costruire una sorta di retorica per permettergli, casomai decidessero appunto una sorta di intervento. E l'altro giorno, proprio ieri anzi, Trump ha dichiarato che tratterà La Habana come l'Iran, quindi si sta alzando un po' il livello della tensione anche per quanto riguarda Cuba, ecco.